giunto in piazza, non so. Forse è rimasto dal mariscalco, ma non può tardare. E voi sentite le funzioni in piazza? La santuzza mi narrava. Gli dicevo che oggi è Pasqua. Andiamo, qui non abbiamo che fare.